I quadri e gli esempi costituiscono una parte molto importante del retto insegnamento. Se qualcuno di voi, nutrendosi di semplicità, fuggirà completamente il lusso, si eserciterà in tal modo a sopportare più facilmente le pene indipendenti dalla sua volontà, procurandosi continuamente afflizioni volontarie come allenamento alle persecuzioni, non si troverà impreparato a resistere saldamente quando dovesse imbattersi in pene, terrori e lutti inevitabili. Per questo noi non abbiamo una patria sulla terra e possiamo disprezzare i beni terreni. Invero, la semplicità è una condizione di grandissima ricchezza, non manchevole di nulla per quel che riguarda le spese necessarie e che si devono compiere. Teleistai, le spese infatti sono dette tele. L'esempio degli altri è di utilità per noi. Il modo in cui una donna debba vivere con suo marito, il suo lavoro personale, la cura della casa, la gestione della servitù, nonché il tempo giusto per il matrimonio e tutte le altre cose che si addicono alle donne, le spiegheremo nel trattato sul matrimonio. L'unica cosa invece che ci rimane da considerare ora è ciò che si conviene all'educazione. Tratteggeremo un'esposizione del modo di vivere dei cristiani. La maggior parte di ciò che concerne questo argomento è già stato da noi trattato e spiegato. Quel che ancora rimane lo esporremo ora. Gli esempi, infatti, hanno una rilevanza non piccola in relazione alla salvezza. «Guarda», dice la tragedia, «Telemaco non ha ucciso la consorte di Ulisse. Essa, infatti, non aveva sposato un altro marito e il Talamo nella casa era rimasto puro. Così, biasimando il dissoluto adulterio, mostra, come bel quadro di castità, la fedeltà al marito. Quanto agli Spartani, essi costringevano gli Iloti, tale era il nome dei loro servi, ad ubriacarsi, e in questo modo, essendo essi stessi sobri, ponevano sotto i loro propri occhi gli effetti dell'ebbrezza, a mo' di terapia e di emendamento. Onde, osservando il vergognoso spettacolo di quelli, ricevevano da tale condizione biasimevole degli ubriachi un insegnamento e ne ricavavano un'utilità, convincendosi di non cadere anch'essi in tale vizio e in simili umiliazioni. Tra gli uomini, invero, alcuni sono stati istruiti da altri e si sono salvati, alcuni invece hanno appreso da sé, emulando e ricercando la virtù. Migliore di tutti è quello che intende ogni cosa da sé. Tale fu Abramo che cercava Dio. Saggio d'altronde è anche colui che si fida di chi parla rettamente. Questi sono i discepoli che hanno obbedito al Logos. Perciò l'uno fu chiamato amico, gli altri apostoli. Il primo si dedicò totalmente all'unico e medesimo Dio. I secondi lo annunciarono. Due popoli che ebbero entrambi dei seguaci. L'uno trasse beneficio dalla sua ricerca. L'altro si salvò grazie a ciò che trovò. Ma chi né intende da sé, né ascoltando gli altri apprende nel suo cuore, è un uomo inutile. Questo è un altro popolo inutile, il popolo dei pagani che non segue il Cristo. Il pedagogo, tuttavia, che ama l'uomo, in molteplici modi ci è di beneficio, ora esortando, ora biasimando, e ci mette sotto gli occhi la vergogna di altri che hanno peccato. E ci mostra la punizione toccata loro per guidare e ammonire la nostra anima. In tal modo, con molta sapienza e con amore, ci tiene lontani dal male, presentandoci l'esempio di coloro che prima di noi hanno subito il castigo. Attraverso queste immagini chiarissime, egli ha posto un freno a coloro che erano inclinati al male, ha impedito coloro che con audacia si indirizzavano allo stesso male, ha fortificato altri nella pazienza e ha fatto cessare altri dalla malizia. Altri, infine, che vedendo l'esempio del castigo per una condizione simile alla loro, si sono convertiti a una vita migliore. Egli li ha così guariti. Chi, invero, seguendo qualcuno su di un cammino, se questi cadesse in una fossa, non farebbe attenzione ad incorrere nello stesso pericolo e si guarderebbe dal seguire l'errore di chi lo precede? Al contrario, quale atleta, conoscendo la strada della gloria e vedendo che il lottatore prima di lui ha conseguito il premio, non si lancerebbe anch'egli verso la corona della vittoria, emulando il primo? Molti sono i quadri di questo genere che la sapienza divina ci presenta. Farò qui menzione di un solo esempio e lo esporrò brevemente. Ciò che subirono i sodomiti fu un castigo per chi aveva commesso iniquità, ma è un insegnamento pedagogico per coloro a cui questa storia viene narrata. Il castigo inflitto ai sodomiti è di esempio per noi. Precipitati nella dissolutezza a causa della loro molta lussuria, i sodomiti si diedero alla fornicazione senza vergogna e si scatenarono nella pederastia. Il Logos, che tutto contempla, li vide. Adesso, infatti, non è possibile che sfuggano coloro che compiono sacrilegi. Il vigile custode dell'umanità non lasciò passare sotto silenzio la loro dissolutezza. In tal modo egli distoglie noi dal limitarli e con sapiente pedagogia ci richiama alla sua propria temperanza. Scagliandosi col castigo contro quei peccatori affinché, se non punita, la loro sfrontata dissolutezza non prendesse maggior forza, diede ordine di incendiare Sodoma, riversando così sulla loro sfrenatezza un po' di quel saggio fuoco, in maniera che la loro lascivia, se fosse rimasta senza castigo, non avesse poi aperto la strada a chiunque si dà in balia delle voluttà. La giusta punizione dei sodomiti è divenuta così immagine della provvidenziale salvezza per l'umanità. Chi infatti non ha commesso peccati simili a quelli di coloro che sono stati puniti, non riceverà mai un castigo come quello inflitto ai peccatori, giacché il non aver peccato lo preserva dal subire la pena. «Voglio che voi sappiate», dice l'apostolo Giuda, «che Dio, dopo aver salvato una volta il popolo dalla terra d'Egitto, fece perire poi quelli che non credettero, e gli angeli che non custodirono la loro dignità e che abbandonarono la loro propria dimora, egli li ha tenuti in serbo, in catene eterne, sotto le tenebre degli angeli selvaggi, per il giudizio del grande giorno». Poco dopo, secondo le migliori regole dell'insegnamento, ci presenta l'esempio di coloro che sono stati condannati. «Guai a costoro, poiché hanno camminato sul sentiero di Caino, hanno emulato l'errore di Balaam e si sono rovinati nella rivolta di Core». È il timore, infatti, che preserva dalla trasgressione coloro che non sono capaci di portare su di sé la libertà della loro adozione a figli. Per questo esistono i castighi e le minacce, perché temendo la condanna ci asteniamo dal peccare. Potrei descriverti le pene inflitte a causa della passione per gli ornamenti, i castighi per l'ambizione di gloria, oltre che per l'intemperanza, nonché citarti gli spietati rimproveri contro la ricchezza, attraverso i quali il Logos, per mezzo del timore, distoglie dall'iniquità. Ma per non allungare troppo questo trattato, ti illustro qui di seguito i precetti del pedagogo, affinché tu possa preservarti immune dalle minacce. Per quale motivo si debba prendere il bagno? Vi sono quattro motivi per cui ci richiamo ai bagni. Questo è infatti l'argomento da cui mi sono allontanato. O per la pulizia, o per il calore, o per la salute, o per il piacere. Il bagnarsi per il solo piacere va evitato, poiché il piacere separato dal pudore deve essere eliminato alla radice. Bisogna invece fare il bagno, le donne per la pulizia e per la salute, gli uomini solamente per la salute. Quanto al bagno caldo, esso è superfluo, giacché un corpo preso dal freddo può essere confortato anche in altre maniere. In verità, il ricorso continuo ai bagni fiacca le forze, abbatte il vigore naturale e spesso induce indebolimenti e svenimenti. Anche i corpi, come gli alberi, bevono, in un certo senso non solo attraverso la bocca, ma anche tramite l'apertura dei pori, come si suol dire, che ha luogo durante il bagno. La prova ne è che sovente chi è assetato, se entra nell'acqua, vede diminuire la sua sete. Se dunque il bagno ha pur qualche utilità, non per questo bisogna illanguidircisi dentro. Gli antichi chiamavano i bagni cardatori di uomini, poiché essi rendono rugosi i corpi più velocemente del consueto e li fanno invecchiare prima del tempo, quasi cuocendoli per mezzo del calore, il quale ammollisce la carne proprio come avviene con il ferro quando lo si surriscalda. Di conseguenza, anche noi, come il ferro, abbiamo bisogno di essere immersi e temprati in acqua fredda. Non si deve prendere il bagno in qualsiasi momento, né con lo stomaco troppo vuoto o troppo pieno. Bisogna anche tener conto dell'età del corpo e della stagione dell'anno, poiché il bagno non è di beneficio a tutti indistintamente e sempre, come affermano anche gli esperti in materia. Ma noi accontentiamoci della giusta misura, che ovunque invochiamo come nostro aiuto nella vita. Non ci si deve attardare nei bagni tanto a lungo da necessitare poi che qualcuno ci aiuti con la mano ad uscire dall'acqua, né ci si deve bagnare di continuo e molte volte al giorno, come si frequenta la piazza del mercato. Anche il farsi versare addosso l'acqua da numerosi servitori è un oltraggio a chi ci è vicino. È avidità di piaceri e significa che non si vuole capire che il bagno deve essere in comune e uguale per tutti quelli che vi partecipano. Ciò che bisogna lavare è soprattutto l'anima con il logos purificatore. Anche il corpo di tanto in tanto deve essere lavato a causa della polvere che gli si attacca. Qualche volta poi ci si deve pure distendere dalle fatiche. «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti», dice il Signore, «poiché assomigliate a sepolcri imbiancati. Di fuori il sepolcro appare bello, ma dentro è pieno di ossa di morti e di ogni impurità». E dice ancora agli stessi: «Guai a voi, poiché purificate l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di impurità. Purifica prima l'interno del bicchiere, affinché diventi puro anche l'esterno». Il miglior bagno, dunque, è quello spirituale, che lava l'anima dalle sue sozzure. È di esso che la profezia dice esplicitamente: «Il Signore laverà le sozzure dei figli e delle figlie di Israele e li purificherà dal sangue che è in mezzo ad essi», cioè il sangue della trasgressione e le uccisioni di profeti. Quale sia il modo di questa purificazione lo spiega lo stesso Logos quando dice: «in spirito di giudizio e in spirito di ardore». Quanto al bagno carnale che lava il corpo, esso ottiene il suo effetto con la sola acqua, come si fa in campagna dove non ci sono bagni. Anche gli esercizi fisici si devono permettere a coloro che vivono secondo il Logos. La ginnastica per gli uomini e per le donne. Per i giovani è sufficiente una palestra, anche se vi è a disposizione un bagno. E in verità non è affatto sbagliato consigliare agli uomini le palestre a preferenza dei bagni, giacché esse apportano ai giovani una certa utilità per la salute e infondono in essi premura e zelo di curare non solo il loro stato fisico ma anche quello dell'anima. E se ciò avviene senza che ci distolga dalle azioni più nobili, è cosa piacevole e utile. A questo proposito, non bisogna esonerare neppure le donne dalla fatica fisica. Non devono però essere invitate alla lotta e alle corse, bensì a fare esercizio fisico con i lavori di filatura e di tessitura e con l'accudire la cuoca, se necessario. Bisogna inoltre che le donne portino a noi con le loro stesse mani ciò di cui necessitiamo delle dispense. Né è disonorevole per esse occuparsi della macina. E neppure è motivo di biasimo per la donna sposata, custode della casa e aiuto del marito, passare il tempo a preparare i cibi affinché siano graditi al marito. E se poi sbattesse essa stessa le coperte e porgesse da bere all'uomo che l'ha sposata e gli servisse personalmente da mangiare, farebbe cosa oltremodo bella e si allenerebbe in vista di una saggia salute. Una tale donna è apprezzata dal pedagogo. Essa impegna le sue braccia in lavori utili, tiene con le sue mani il fuso, apre le sue mani all'indigente e porge un frutto al povero. E non si vergogna di emulare Sara nel più bello dei servizi, assistere i viandanti. Abramo, infatti, disse a Sara: «Su via, in fretta, impasta 3 misure di fior di farina e prepara delle focacce». E poi: «Rachele, figlia di Labano, arrivò con le pecore di suo padre». Ma questo non basta, per mostrare la sua umiltà aggiunge: «Essa stessa infatti pascolava le pecore di suo padre». Beneficio dei lavori agricoli. Sono migliaia gli esempi di semplicità, di lavoro manuale e di esercizi fisici che le scritture offrono. Quanto agli uomini, gli uni partecipino alla lotta nudi, gli altri giochino a fainda con una piccola palla, preferibilmente al sole. Ad altri ancora basti una passeggiata camminando in campagna o scendendo in città. Se poi mettessero anche mano alla zappa, si assicurerebbero così una sorta di palestra agricola, facendo un'attività tutt'altro che ignobile e anzi conforme all'economia domestica. Per poco mi sfuggiva quel famoso Pittaco, il re di Mitilene, che compiva una robusta ginnastica girando la mola. È bene anche attingere da se stessi l'acqua e tagliare la legna di cui si ha bisogno. Giacobbe pascolava le pecore di Labano che gli erano rimaste e teneva come scettro regale un bastone di storace, poiché intendeva con quel legno mutare in meglio la natura. Per molte persone, inoltre, un buon esercizio fisico può essere anche quello di leggere ad alta voce.